Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Avevamo lasciato la nostra lettura nel punto culminante della scena tra il principe Vassili e la principessina Caterina Semyonovna, a proposito del testamento del conte Bezukhov. Il principe Vassili finalmente riesce a far capire a Caterina il rischio che sta correndo, se non si trova la lettera con cui il vecchio conte chiede all'imperatore di legittimare come erede il figlio naturale Pierre. Mentre tali discorsi si facevano nella sala di ricevimento e nella camera della principessina, la carrozza in cui erano Pierre e Anna Mikhailovna entrava nel cortile del conte Bezukhov. Quando le ruote della carrozza attenuarono il loro rumore sulla paglia stessa sotto le finestre, Anna Mikhailovna, rivolgendosi al suo compagno con parole di conforto, fu sorpresa di vedere che egli dormiva in un angolo della carrozza e lo svegliò. Destatosi, Pierre scese di carrozza dietro ad Anna Mikhailovna e allora soltanto pensò all'incontro che stava per avere col padre moribondo. Si accorse che non si erano fermati all'ingresso d'onore, ma a quello di servizio. Nel momento che egli aveva tolto il piede dal montatoio, due uomini vestiti come piccoli borghesi si erano allontanati rapidamente dalla porta, nascondendosi nell'ombra del muro. Soffermandosi, Pierre vide nell'ombra della casa, da tutte e due le parti, alcuni altri uomini del medesimo aspetto. Ma né Anna Mikhailovna, né il domestico, né il cocchiere, che non potevano non vedere quella gente, vi fecero caso. «Si vede che deve essere così», concluse Pierre fra sé, e seguì Anna Mikhailovna. Anna Mikhailovna andava su a passi affrettati per la stretta scala di pietra debolmente illuminata, chiamando Pierre, che era rimasto un po' indietro, e che, sebbene non capisse perché dovesse andare dal conte e tantomeno perché dovesse passare per la scala di servizio, pure, giudicando dalla sicurezza e dalla fretta di Anna Mikhailovna, concluse fra sé che ciò doveva essere assolutamente necessario. A metà della scala, per poco non furono gettati a terra da certi uomini, che scendevano di corsa con dei secchi e che facevano rumore con gli stivali. Questi uomini si strinsero al muro per lasciar passare Pierre e Anna Mikhailovna e non mostrarono nessuna sorpresa vedendoli. Pierre non era mai stato in quella parte della casa e non sospettava neppure l'esistenza di quelle stanze. A una cameriera che passava loro davanti con una bottiglia su un vassoio, Anna Mikhailovna domandò della salute delle principessine e trascinò oltre Pierre nel corridoio. La prima porta a sinistra metteva nelle stanze abitate dalle principessine. La cameriera che portava la bottiglia, nella fretta, non aveva richiuso la porta e Pierre e Anna Mikhailovna, passando, gettarono, senza volerlo, uno sguardo nella stanza dove stavano seduti uno vicino all'altra, discorrendo, la maggiore delle principessine e il principe Vassili. Vedendo i due che passavano oltre, il principe Vassili fece un movimento di impazienza e si rigettò indietro. La principessina balzò su e con un gesto furioso sbatté la porta con tutta la sua forza, chiudendola. Questo gesto era così poco conforme alla calma abituale della principessina, la paura impressa sul viso del principe Vassili era così lontana dalla sua gravità che Pierre, fermatosi, guardò interrogativamente attraverso gli occhiali la sua guida. Anna Mikhailovna non si mostrò stupita, ma ebbe soltanto un lieve sorriso e sospirò, come per far vedere che si aspettava tutto ciò. Dal corridoio sboccarono in una stanza semi-illuminata che dava nella sala di ricevimento del conte. Sul viso di Anna Mikhailovna era impressa la consapevolezza che il momento decisivo era giunto. Essa, coi modi di una signora di Pietroburgo esperta d'affari, entrò nella stanza senza scostarsi di un passo da Pierre. Conducendo con sé colui che il moribondo desiderava vedere, era sicura di essere ricevuta. Con una rapida occhiata scrutò tutti coloro che erano nella stanza e, scorgendovi il confessore del conte, senza fare un inchino ma abbassando a un tratto la sua statura, gli si avvicinò scivolando e ricevette rispettosamente la sua benedizione e poi quella dell'altro sacerdote. «Grazie a Dio siamo riusciti», disse all'ecclesiastico. «Tutti noi altri parenti avevamo tanta paura. Questo giovane è il figlio del conte», aggiunse sottovoce. «Che terribile momento». Si rivolse a Pierre, indicandogli un piccolo divano perché sedesse e l'aspettasse, e si avviò senza rumore verso la porta che tutti fissavano. La porta ebbe un impercettibile cigolio ed ella sparì. Non passarono due minuti che il principe Vassili, con l'abito da cerimonia ornato di tre placche, maestosamente, a testa alta, entrò nella stanza. Sembrava smagrito dalla mattina. I suoi occhi erano più grandi del solito quando si guardò intorno e scorse Pierre. Gli si avvicinò, gli prese la mano e la tirò in giù, quasi volesse provare se era ben salda. «Courage, coraggio, amico mio. Ha chiesto di vedervi. Ebbene», e voleva andarsene. Ma Pierre ritenne necessario domandare «Come sta?» Però si confuse, non sapendo se fosse conveniente chiamare il moribondo conte. A chiamarlo mio padre si vergognava. «Ha avuto ancora un colpo, una mezz'ora fa. Un altro colpo. Coraggio, amico mio». Pierre aveva le idee così confuse che alla parola colpo pensò a un colpo materiale. Dubbioso guardò il principe Vassili e soltanto allora capì che il colpo era il nome della malattia. Dietro alla porta si sentì un andirivieni e finalmente, col viso sempre pallido ma fermo, come nel compimento di un dovere, entrò correndo Anna Mikhailovna e, toccando il braccio di Pierre, disse «La bonté divine est inépuisable. Sta cominciando la cerimonia dell'estrema unzione. Venite, venite». Pierre conosceva bene quella grande stanza, divisa da un arco e da colonne, tutta tappezzata di tappeti persiani. La parte dietro le colonne, dove da un lato era un alto letto di mogano, parato di cortine di seta, e dall'altro un'enorme vetrina con le immagini, era vivamente illuminata da una luce rossiccia, come le chiese di solito durante l'uffizio serale. Sotto le cornici illuminate della vetrina era una lunga poltrona alla Voltaire, e sulla poltrona, dalla spalliera guarnita di guanciali bianchi come la neve, intatti, cambiati certamente allora a allora, giaceva, avvolta fino alla cintola in una coperta d'un verde vivo, la maestosa figura, ben nota a Pierre, di suo padre, il conte Bezukhov, con la sua folta criniera grigia che ricordava quella di un leone sull'ampia fronte e le sue grosse rughe, che avevano qualcosa di caratteristicamente nobile sul bel viso di un rosso giallognolo. Egli era steso proprio sotto le immagini. Le sue grandi e forti mani erano fuori della coperta e vi si posavano. Nella mano destra, che stava con la palma in giù, fra l'indice e il pollice, era stata messa una candela di cera che un vecchio servitore sosteneva, chinandosi da dietro la poltrona. Intorno alla poltrona stavano i sacerdoti, coi loro paramenti maestosi e luccicanti, coi lunghi capelli che vi ricadevano sopra, con le candele accese in mano, e officiavano con lenta solennità. Un po' indietro stavano le due principessine più giovani, col fazzoletto in mano o sugli occhi, e davanti a loro, con un aspetto cattivo e risoluto, la maggiore, Katish, che non toglieva un momento gli occhi dalle immagini, come se volesse dire a tutti che, se si guardava in giro, non poteva rispondere di sé. Anna Mikhailovna, con un'espressione di dolce tristezza e di perdono per tutti sul viso, stava presso la porta. Dall'altra parte della porta c'era il principe Vassili. Il suo viso esprimeva una pietà tranquilla e la rassegnazione al volere divino. «Se non capite questi sentimenti, peggio per voi», pareva che dicesse la sua fisionomia. La principessina più giovane, la colorita e ilare Sofia, lo guardava e la sorrise. Nascose il volto nel fazzoletto e per un pezzo non lo scoprì, ma dopo aver guardato Pierre tornò a ridere. Si vedeva che non si sentiva capace di guardarlo senza ridere, ma non poteva fare a meno di guardarlo. E per evitare la tentazione passò pian piano dietro ad una colonna. A metà dell'uffizio le voci dei sacerdoti tacquero a un tratto ed essi si dissero qualcosa sommessamente l'uno all'altro. Il vecchio servitore che teneva il braccio del conte si alzò e fece un cenno alle signore. Si diede qualcosa da bere all'infermo e ci fu un andirivieni intorno a lui e poi di nuovo tutti tornarono ai loro posti e ricominciò il servizio divino. In questo intervallo Pierre si accorse che il principe Vassili, con l'aria di chissà quello che fa e tanto peggio per gli altri se non lo capiscono, non si era accostato al malato, ma era andato oltre, aveva raggiunto la maggiore delle principessine e con lei si era avviato al fondo della camera, verso l'alto letto con le cortine di seta. Poi, dietro al letto, il principe e la principessina sparirono entrambi da una porticina a muro. Ma prima della fine dell'uffizio tornarono al loro posto. Pierre non prestò più attenzione a questa circostanza che a tutte le altre, avendo stabilito una volta per sempre in cuor suo che quanto avveniva dinanzi a lui quella notte doveva necessariamente essere così. I suoni del canto liturgico cessarono e si udì la voce di un prete che felicitava rispettosamente l'infermo per aver ricevuto i sacramenti. L'infermo giaceva sempre inerte ed immobile. Intorno a lui tutti si agitarono, si sentirono passi e sussurri, fra i quali dominava quello di Anna Mikhailovna. Pierre sentì che diceva: «Bisogna assolutamente portarlo sul letto, qui sarà impossibile». Il malato era talmente circondato dai medici, dalle principessine e dai servi che Pierre non vedeva più quel viso d'un rossore giallognolo, con la criniera grigia che non aveva perduto un momento di vista per tutto il tempo della cerimonia, benché vedesse anche tanta altra gente. Pierre indovinò dai movimenti cauti delle persone che circondavano la poltrona che il moribondo era sollevato e trasportato altrove. Ci furono alcuni momenti di agitazione intorno al letto. La gente che aveva portato l'infermo si allontanò. Anna Mikhailovna toccò il braccio a Pierre e gli disse: «Venè». Pierre, insieme con lei, si avvicinò al letto, sul quale era steso il malato in un atteggiamento solenne, che evidentemente era in rapporto coi sacramenti ricevuti allora allora. Quando Pierre si fu avvicinato, il conte lo guardò fisso, ma con uno di quegli sguardi di cui non si può capire il senso né l'importanza. Pierre si fermò, non sapendo che fare, e guardò interrogativamente la sua guida, Anna Mikhailovna. Anna Mikhailovna gli fece un rapido segno con gli occhi, indicandogli la mano dell'infermo e mandando con le labbra l'accenno d'un bacio. Pierre, allungando il collo con uno sforzo per non impigliarsi nella coperta, seguì il suo consiglio e appoggiò la bocca sulla mano carnosa ed ossuta. Né la mano né un solo muscolo del viso del conte ebbe un tremito. Pierre guardò di nuovo interrogativamente Anna Mikhailovna per sapere che altro dovesse fare. Anna Mikhailovna gli mostrò con gli occhi una poltrona che era accanto al letto. Pierre, docilmente, si mise a sedere sulla poltrona, evidentemente rammaricandosi che il suo grosso e sgraziato corpo occupasse tanto posto e adoperando tutte le sue forze per poter sembrare quanto più piccolo poteva. Egli guardava il conte. Il conte guardava il punto dove era il viso di Pierre quando questi stava in piedi. Anna Mikhailovna mostrava col suo atteggiamento di aver coscienza dell'importanza commovente di quell'ultimo incontro fra il padre e il figlio. Tutto ciò durò 2 minuti, che a Pierre parvero un'ora. A un tratto, nei forti muscoli e nelle larghe rughe della faccia del conte, apparve un tremito. Il tremito si fece più intenso e la bella bocca si storse. Allora soltanto Pierre capì fino a che punto suo padre fosse vicino alla morte. E dalla bocca storta uscirono suoni confusi e rauchi. Gli occhi e il viso del malato esprimevano l'impazienza. «Vuole essere voltato dall'altra parte», mormorò il domestico, e si alzò per voltare il pesante corpo del conte con la faccia verso il muro. Pierre si alzò anche lui per aiutare il domestico. Mentre rivoltavano il conte, una mano di lui ricadde indietro inerte ed egli fece vani sforzi per tirarla a sé. Si accorse il conte dello sguardo di terrore che Pierre fissava su quella mano senza vita, o qualche altro pensiero balenò nella sua mente di moribondo in quel momento. Egli guardò prima la mano che non gli obbediva, poi l'espressione di terrore sul viso di Pierre, poi di nuovo la mano, e sulla sua faccia comparve un tenue sorriso pieno di sofferenza, che mal si addiceva ai suoi lineamenti e pareva un'ironia verso la propria debolezza. Inaspettatamente, a veder quel sorriso, Pierre sentì un tremito nel petto, un formicolio nel naso e le lacrime gli velarono la vista. Avevano voltato il malato su un fianco, verso il muro. Egli sospirò. «Il letto assopì», disse Anna Mikhailovna, scorgendo una delle principessine che veniva per darle il cambio. «Andiamo». Pierre uscì. Nella sala di ricevimento non c'era più nessuno all'infuori del principe Vassili e della maggiore delle principessine. A Pierre parve che la principessina nascondesse qualcosa e mormorasse: «Non posso vedere quella donna». Pierre ed Anna Mikhailovna andarono nel petit salon. Intorno alla tavola si erano riuniti, per ristorare le loro forze, quanti si trovavano quella notte nella casa del conte Bezukhov. Pierre si ricordava bene di quel salottino rotondo con gli specchi e i tavolini. Quando c'erano dei balli in casa del conte, Pierre, che non sapeva ballare, amava starsene in quel salottino degli specchi e osservare le signore nei loro abiti da ballo, con brillanti e perle sulle spalle nude che, passando per quella stanza, si guardavano negli specchi vivamente rischiarati che ripetevano molte volte la loro immagine. medesima stanza era appena illuminata da due candele e nel cuore della notte stavano alla rinfusa su un solo piccolo tavolino le tazze da tè e i piatti della cena e persone di vario genere, non più in umore di festa, parlavano sottovoce, mostrando con ogni gesto, con ogni parola che nessuno dimenticava ciò che accadeva e doveva ancora accadere nella camera da letto. Pier non mangiò nulla, benché ne avesse molta voglia. Guardò interrogativamente la sua guida che, in punta di piedi, se ne andava di nuovo nella sala di ricevimento, dove erano rimasti il principe Vassili e la maggiore delle principessine. Pier pensò che anche questo doveva essere necessario e, dopo aver indugiato un poco, le andò dietro. Anna Mikhailovna stava in piedi accanto alla principessina e tutte e due parlavano ad un tempo, concitatamente e sottovoce. «Permettetemi di sapere, principessa, quello che occorre e quello che non occorre», diceva la principessina. «Ma, cara principessina», diceva Anna Mikhailovna con dolcezza persuasiva, sbarrando la strada verso la camera e non lasciando passare la principessina, «non sarà troppo penoso per il povero zio in questi momenti che ha bisogno di riposare, parlare delle cose del mondo in questi momenti, quando la sua anima è già preparata?» Il principe Vassili sedeva in una poltrona, nell'atteggiamento a lui familiare, con una gamba accavallata sull'altra, e l'aspetto di un uomo che poco si occupasse dei discorsi delle due signore. «Voyons, ma bon Anna Mikhailovna, lasciate fare Katish. Sapete quanto il conte le vuol bene?» «Io non so neppure che cosa ci sia in questa carta», disse la principessina, rivolgendosi al principe Vassili e mostrando il portafogli di mosaico che teneva in mano. «So soltanto che il vero testamento si trova nella sua scrivania, in camera sua, e che questa è una carta dimenticata». Ella voleva scansare Anna Mikhailovna, ma Anna Mikhailovna, con un salto, le sbarrò di nuovo il passo. «Lo so, cara e buona principessina», disse Anna Mikhailovna, mettendo la mano sul portafogli e con tanta forza che era chiaro che non l'avrebbe lasciato andare così presto. «Cara principessina, vi prego, vi scongiuro, abbiate pietà di lui». La principessina taceva. Si udiva soltanto il rumore degli sforzi che facevano le mani nella lotta per il portafogli. Si capiva che, se essa avesse parlato, non avrebbe detto delle cose lusinghiere per Anna Mikhailovna. Anna Mikhailovna teneva forte il portafogli, ma, ciò nonostante, la sua voce serbava tutta la sua dolcezza strascicante e la sua tenerezza. «Pier, venite qui, caro. Penso che egli non sia di troppo in un consiglio di famiglia, non è vero, principe?» «Ma perché tacete, cugino?» gridò a un tratto la principessina, così forte che dal salotto sentirono la sua voce e rimasero spaventati. «Perché state zitto, quando qui Dio sa chi si permette di mischiarsi e fare scene sulla soglia della camera di un moribondo?» «Intrigante!» aggiunse sottovoce con rabbia e tirò il portafogli con tutta la sua forza, ma Anna Mikhailovna fece alcuni passi per non abbandonare il portafogli e le afferrò la mano. «Oh!» esclamò il principe Vassili con accento di rimprovero e di sorpresa. «C'est ridicule! Su, lasciate andare, vi dico!» La principessina lasciò il portafogli. «E anche voi!» Anna Mikhailovna non gli obbedì. «Lasciate, vi dico! Prendo tutto su di me. Andrò da lui e lo interrogherò. Io! Questo vi basti!» «Beh, mon prince!» disse Anna Mikhailovna. «Dopo un sacramento così solenne, lasciategli un minuto di riposo. Ecco, Pier, dite la vostra opinione!» E si rivolse al giovane che, fattosi loro vicinissimo, guardava stupito il viso bianco di rabbia della principessina, che aveva perduto ogni senso di convenienza, e le guance del principe Vassili agitate da un tremito. «Ricordatevi che risponderete di tutte le conseguenze», disse severamente il principe Vassili. «Voi non sapete quello che fate». «Schifosa donna!» esclamò la principessina, gettandosi improvvisamente su Anna Mikhailovna e strappandole il portafogli. Il principe Vassili abbassò il capo e allargò le braccia. In quel momento la porta, quella terribile porta che Pierre aveva fissata per tanto tempo e che si apriva così dolcemente, si spalancò a un tratto con fracasso, picchiando contro il muro, e la seconda delle principessine ne uscì di corsa, giungendo con forza le mani. «Che fate?» proferì disperatamente. «Il s'en va, e vous me laissez seul! Muore e mi lasciate sola!» La maggiore delle principessine lasciò cadere il portafogli. Anna Mikhailovna si chinò prontamente e, impossessandosi dell'oggetto conteso, scappò nella camera. La principessina e il principe Vassili, riavutisi, la seguirono. Dopo alcuni minuti uscì per la prima la sorella maggiore, col viso pallido e tirato, mordendosi il labbro inferiore. Alla vista di Pierre, il suo viso prese un'espressione di ira incontenibile. «Sì, rallegratevi adesso. È questo che aspettavate. e singhiozzando si nascose il viso nel fazzoletto e scappò via dalla stanza. Dietro alla principessina uscì il principe Vassili. Vacillando raggiunse il divano sul quale sedeva Pierre e vi cadde su, coprendosi il viso con la mano. Pierre notò che egli era pallido e che la sua mascella inferiore sussultava e tremava come nei brividi della febbre. «Ah, mio caro», disse egli prendendo Pierre pel gomito, e nella sua voce c'era una sincerità e una debolezza che Pierre non aveva mai notate in essa. «Quanto pecchiamo, quanto inganniamo, e tutto questo perché? Io ho 60 anni, caro mio, per me ormai tutto finisce con la morte, tutto. La morte è una cosa terribile». E si mise a piangere. Anna Mikhailovna uscì per ultima. Si avvicinò a Pierre con passi silenziosi e lenti. «Pierre», disse. Pierre la guardò interrogativamente. Ella baciò il giovane sulla fronte, bagnandogliela di lacrime, e tacque un poco. «Il n'è più». Pierre la guardò attraverso gli occhiali. Ella lo condusse nel salotto buio e Pierre era contento che nessuno lì lo vedesse in viso. Anna Mikhailovna lo lasciò e quando tornò egli, con un braccio piegato sotto il capo, dormiva di un sonno profondo. La mattina dopo Anna Mikhailovna diceva a Pierre: «Oui, mon cher, è una grande perdita per tutti noi. Dio vi aiuterà, siete giovane e ora in possesso di una immensa fortuna. Io lo so che non vi monterete la testa, ma questo vi impone di essere uomo. Certo, se non ci fossi stata io, chissà cosa sarebbe successo. Sapete, l'altro ieri mio zio mi prometteva che non avrebbe dimenticato Boris. Spero, mio caro, che vorrete esaudire il desiderio di vostro padre». Pierre non capiva nulla e, arrossendo timidamente, guardava in silenzio la principessa Anna Mikhailovna. Dopo aver parlato con Pierre, Anna Mikhailovna andò dai Rostov e si coricò. Quando si svegliò la mattina, raccontò ai Rostov e a tutti i suoi conoscenti i particolari della morte del conte Bezukhov. Disse che il conte era morto come lei stessa avrebbe desiderato di morire, che la sua fine era stata non solo commovente ma edificante, che l'ultimo incontro del padre col figlio era stato così commovente che ella non poteva ricordarlo senza lacrime e non sapeva chi si fosse comportato meglio in quei terribili momenti, se il padre, che negli ultimi istanti si era ricordato di tutto e di tutti e aveva detto così commoventi parole al figlio, o Pierre, che faceva pietà a guardarlo, tanto era distrutto, eppure, malgrado ciò, si sforzava di nascondere il suo dolore per non affliggere il padre morente. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.